Capitolo terzo. Il più nobile degli uomini, ma io stesso non ci credo. Non sono riuscito a prendere sonno. E come avrei potuto? C'è qualcosa che mi pulsa nella testa. Vorrei spiegarmi tutto questo, tutta questa lordura. Oh, che lordura! Oh, da quale lordura la trascinai fuori in quell'occasione. E lei questo avrebbe dovuto capirlo, avrebbe dovuto apprezzare il mio comportamento. Mi stuzzicavano anche varie altre idee, per esempio il fatto che io avevo 41 anni e lei soltanto 16. Questo pensiero mi suggestionava, si traduceva in una sensazione di disuguaglianza ed era assai dolce, davvero dolce. Io, per esempio, volevo fare un matrimonio all'inglese, vale a dire noi due soltanto, eventualmente alla presenza di due testimoni, uno dei quali fosse Lucheria, e poi subito in treno, alla volta, per esempio, di Mosca. Là, detto per inciso, avevo anche un affare in corso, sistemati in un albergo per 2 settimane. Lei si oppose. Non acconsentì e mi trovai obbligato ad andare a omaggiare le zie come parenti da cui prenderla. Dovetti cedere e alle zie fu reso il dovuto omaggio. Regalai addirittura 100 rubli a quelle carogne e ne promisi loro ancora, senza dir nulla di tutto ciò a lei, si capisce, per non amareggiarla con la miseria della situazione. Le zie si ammansirono immediatamente. Ci fu anche una discussione sulla dote. Lei non aveva niente, quasi in senso letterale, e non voleva nemmeno niente. Riuscii tuttavia a dimostrarle che proprio nulla non si poteva portare in dote, e alla fine una dote gliela feci io, perché chi altri avrebbe potuto fargliela? Ma di me chi se ne importa? Ciò nonostante, riuscii allora a comunicarle in qualche modo alcune mie idee, perché se non altro sapesse. Forse ebbi perfino fretta. La cosa importante era che lei fin dall'inizio aveva un bel farsi forza, ma aveva finito col gettarsi su di me con amore. Mi veniva incontro con entusiasmo quando rientravo la sera, mi raccontava con il suo balbettio, ammaliante balbettio dell'innocenza. Tutta la sua infanzia, la sua adolescenza, mi raccontava della casa paterna, del padre, della madre. Ma io su tutto questo trasporto versavo sempre e repentinamente dell'acqua gelida. Ecco, era proprio in questo che consisteva la mia idea. Agli entusiasmi rispondevo col silenzio, un silenzio benevolo, ovviamente. E tuttavia lei vide subito che tra noi vi erano delle differenze e che io ero un enigma. E io, questo è ciò che conta, battevo sul tasto dell'enigma. Può darsi che io abbia fatto tutta questa sciocchezza soltanto per sottoporle un enigma. In primo luogo, severità, e sotto il segno della severità la feci entrare in casa. In una parola, diedi vita allora, pur essendo soddisfatto, a tutto un sistema. Oh, esso prese forma senza sforzo alcuno, da sé. E d'altro canto non poteva essere diversamente. Ero costretto a creare questo sistema da circostanze irresistibili. Non ho motivo quindi di calunniarmi. Il sistema era autentico. No, ascoltate, se si deve giudicare un uomo, lo si giudichi almeno conoscendo la vicenda. Ascoltate. Ma in che modo iniziare dal momento che è molto difficile? Quando cominci a giustificarti, ecco che si presenta la difficoltà. Vedete, la gioventù, tanto per fare un esempio, disprezza i soldi. Io allora ci diedi dentro proprio coi soldi. Mi misi a insistere sui soldi. E ci diedi dentro al punto che lei cominciò a chiudersi sempre più nel mutismo. Sgranava quegli occhi grandi, ascoltava, guardava e taceva. Vedete, la gioventù è generosa, la buona gioventù è sottinteso, generosa e irruenta, ma poco tollerante. Appena qualcosa non è di suo gradimento, ecco il disprezzo. Ma io la volevo di larghe vedute, volevo instillarle tale grandezza direttamente nel cuore, instillargliela nello sguardo del cuore. Non è forse giusto? Prendiamo un esempio volgare. Come avrei potuto, per esempio, spiegare il mio banco dei pegni a un carattere del genere? Si capisce, non ne parlai direttamente, altrimenti avrei dato l'impressione di chiedere scusa per il banco dei pegni, mentre io, per così dire, agivo spinto dall'orgoglio, parlavo pressoché tacendo. Io poi sono maestro del parlar tacendo, tutta la mia vita l'ho trascorsa parlando in silenzio e sempre in silenzio sono passato solo con me stesso attraverso autentiche tragedie. Certo che anch'io sono stato infelice. Sono stato respinto da tutti, respinto e dimenticato. E questo non lo sa nessuno, nessuno. E di colpo questa ragazzina, sedicenne, aveva raccattato da persone volgari dei dettagli sul mio conto e pensava di saper tutto, mentre il segreto restava sepolto nell'intimo di quest'uomo. Io tacevo sempre. E specialmente tacevo, specialmente con lei, ho taciuto fino a ieri. Ma perché tacevo? Tacevo da uomo orgoglioso. Volevo che lei arrivasse a sapere da sola, senza il mio aiuto. E certo non basandosi sui racconti di alcune canaglie, volevo che indovinasse da sola il segreto di quest'uomo e lo comprendesse. Accogliendola in casa mia, esigevo da lei pieno rispetto. Avrei voluto che stesse davanti a me a pregare per le mie sofferenze. Me lo meritavo. Oh, orgoglioso lo sono sempre stato. Ho sempre voluto tutto o niente. Proprio perché io non volevo spartire la mia felicità, ma la volevo piena. Proprio per questo ero obbligato a comportarmi in quel modo, pensando, rivolto a lei. Comprendimi da sola e apprezzami. Se infatti ne convenite, io stesso avessi cominciato a spiegarle e a imboccarla, a convincerla, a chiederle rispetto, allora sarebbe stato proprio come chiederle la carità. E d'altro canto, perché ne parlo? È stupido, stupido, stupido e stupido. Io allora, in due parole, le spiegai esplicitamente e crudelmente, rimarco il fatto che glielo dissi crudelmente, che la generosità della gioventù è meravigliosa, ma non vale un soldo. E perché non vale un soldo? Perché ce l'ha a buon mercato, l'ha ottenuta senza aver vissuto. Consiste, per così dire, nelle prime impressioni dell'esistenza. Ma vediamovi un po' al lavoro. La generosità a buon mercato è sempre facile. Perfino il sacrificio della vita è a buon mercato, perché basta che il sangue si metta a bollire, che le forze siano esuberanti, che si aneli appassionatamente alla bellezza. No, prendete piuttosto un gesto di generosità difficile, silenzioso, inavvertibile, un gesto privo di splendore e vittima della calunnia, in cui molto sia il sacrificio e non vi sia nemmeno un'ombra di gloria. E dove voi, uomo brillante, venite additato a tutti come un mascalzone, mentre siete l'uomo più nobile della terra. Allora, mettetevi alla prova in un gesto del genere. No, vi tirate indietro. E io, per tutta la vita, non ho fatto altro che assumermi l'onere di tale gesto. All'inizio discuteva e come, ma poi cominciò a tacere finché non aprì più bocca. Si limitava, ascoltandomi, a sgranare terribilmente gli occhi. Occhi grandi, grandi, attenti. E oltre a ciò io scorgevo d'un tratto sul suo viso un sorriso, diffidente, silenzioso, cattivo. Ecco, con questo sorriso io la introdussi in casa mia. Vero è che lei ormai non aveva dove andare.